@radio-radio.rai.it/24. Un saluto da Marta Cagnola e Giulia Crivelli. Giulia, è pronto il vestito, il cappellino? Siamo preparate sufficientemente per il matrimonio reale? Sì, io l'ho ancora deciso esattamente per il cappello, però metterò la gonna, eccezionalmente non i jeans. E un colore pastello, sì, come si confà alle grandi occasioni britanniche. Siamo ovviamente pronte per il matrimonio di William e di Kate. Non dobbiamo neanche specificare chi sono, siamo in grande attesa. Venerdì prossimo ne parleremo anche a Radio 24, ma intanto cominciamo un po' a entrare nell'atmosfera del matrimonio e anche di questa lingua inglese così British. Abbiamo scelto tre estratti da un canale di YouTube molto divertente, che è questo canale dedicato al Royal Wedding della ITN, che è un canale televisivo inglese. Sentiremo tre modi diversi di parlare inglese e io partirei con un inglese molto comprensibile, molto chiaro, di un'esperta di buone maniere che si chiama Jill Harbord. Ci racconta cosa è secondo lei il personaggio di Kate Middleton e cosa deve fare per comportarsi secondo le buone maniere. I am one of Prince William's and Catherine Middleton's greatest fans. I think she's just what we need. She has tasted what the rest of us know as ordinary life, and now she's moving on. And of course, she must remember that grandmother is queen, and this must never be far from her thought. If you're the queen and you don't address her in the right way, major faux pas. I just think she is such a special girl and I wish her so much luck. Remember, she's going to be in the public eye all the time, and if she feels like doing something silly, the next day it's going to be plastered all over the papers. Ma parlassero sempre così gli inglesi, noi non ci perderemmo neanche una parola. Questa signora Jill Harbord parla in maniera splendida, questo British perfettamente comprensibile. E tra l'altro chiama Kate Catherine, perché abbasso i diminutivi, insomma, forse anche questa per lei è una buona maniera. Comunque dice di essere una di Williams and Catherine's Middleton, Catherine Middleton's, quindi il genitivo sassone dopo il cognome, greatest fans. Dà una spiegazione deliziosa del perché Kate, anzi Catherine, è esattamente quello di cui abbiamo noi inglesi bisogno. Quindi just what we need, because she has tasted what the rest of us know as ordinary life. To taste naturalmente vuol dire gusto, good taste, buon gusto, bad taste, cattivo gusto, ma to taste vuol dire non tanto gustare ma assaggiare, quindi ha assaggiato, ha avuto un assaggio di quello che tutti noi, the rest of us, know as ordinary life. Certo, di principessa ce n'è una per volta. Quindi lei è stata fino a adolescenza inoltrata, anzi fino a quando ha incontrato il suo futuro sposo, una persona più o meno normale, figlia di una hostess, lo sappiamo, ce l'hanno raccontato eccetera, però adesso she's moving on. To move on vuol dire andare oltre, quindi ovviamente farà un bel salto, altro che oltre. C'è qualcosa che la nostra Kate non si deve mai e poi mai dimenticare. Grandmother is queen, quindi attenzione, non grandmother is the queen, ma la nonna, grandmother, è regina, che naturalmente parliamo di Elisabetta, e questo must never be far from her thought. Un modo per dire, appunto, non se lo deve dimenticare, letteralmente non deve essere mai lontano dai suoi pensieri, questa cosa che non credo che sia facile dimenticare, di avere una nonna regina, però. E poi è importante non fare un enorme passo falso, questo major faux pas in francese, ad esempio quello di rivolgersi alla nonna nel modo sbagliato, resta appunto regina. Quindi to address naturalmente è l'indirizzo, però to address someone vuol dire rivolgersi, quindi she don't address her in the right way, quindi ricordarsi sempre di rivolgersi a lei nel modo giusto. Chi ha visto il film The Queen sa che ci sono fior di regole anche per i familiari più stretti, e però insomma Kate, o meglio Catherine, resta secondo la nostra adorabile Jill such a special girl, è una ragazza speciale. E ha bisogno anche un po' di fortuna, perché cosa succederà, anche insomma, memori di quello che è successo alla suocera che purtroppo lei non ha potuto conoscere, sarà sempre nell'occhio dell'agente della stampa. Quindi she's going to be in the public eye, che letteralmente nell'occhio pubblico, noi diciamo sotto i riflettori per esempio, e che però è, il significato è quello, cioè qualsiasi cosa fa poi è anche qualcosa di sciocco. If she feels like doing something silly, quindi non stupido ma semplicemente sciocco, ecco, the next day it's going to be plastered all over the papers. To be plastered vuol dire essere spiaccicato da tutti, su tutti i giornali. Poi la signora Jill forse ha una certa età, all over the papers, e potremmo aggiungere all over the internet, che forse è ancora più grave. Ma parlano tutti come la signora Jill gli inglesi? Certo che no. Ad esempio sentiamo come parla del vestito di Kate Middleton la ITN in questo servizio. Our bride-to-be, Kate Middleton, has actually designed her own frock. Go, Kate. We obviously don't mean she spent the last few weeks sat at a sewing machine, but a handy source says she came up with the look and style for the gown. According to an insider, Kate was inspired by her history of art degree, particularly the Renaissance period, as she studied in Florence during her gap year. Kate also used to work as an accessory buyer for high street chain Jigsaw, a fashion qualification if ever there was one. Despite the dress reportedly being under lock and key at Clarence House, someone else in the know is said to have seen it and leaked some details. Apparently, what Kate's come up with is an ivory satin and lace number with a pearl button detail. Nice. Oh, and it's claimed the train is 10 foot long. Amazing. Royal wedding? Yeah, we can't wait. È tutto un altro inglese, lo commentavamo anche con il nostro Roberto in regia, è tutto un altro modo di parlare. Intanto go Kate, le dice, vai Kate. Kate, insomma Jill non si permetterebbe mai. Royal wedding, yeah, we can't wait, non vediamo l'ora, non possiamo più aspettare, vogliamo che arrivi questo venerdì. E intanto ci sono tutte queste elucubrazioni sul vestito di Kate. Sì, our bride to be, bride è la sposa, la futura sposa, quindi bride to be, in realtà proprio la bride si diventa bride nel momento in cui si entra nella chiesa e ci si avvia verso l'altare, quindi lei è una bride to be, non è ancora, non ci siamo ancora a quel momento. E si dice però, l'abbiamo sentito, l'abbiamo letto anche sui giornali, che she has designed her own frock, cioè ha disegnato il suo vestito, il suo look, però ci avverte questa signorina che parla in questo modo un po' concitato, un po' veloce e con un accento che non so di che parte di Londra sia, che non dobbiamo immaginarsela sitting at a sewing machine for the last days, cioè non dobbiamo immaginarci che Kate sia stata lì seduta alla macchina da cucire in quel senso, l'ha solo immaginato. Eh sì, però lei ha avuto qualche ispirazione, perché non è digiuna di moda e di arte, ci spiega con però un tono un po' ironico la giornalista. Sì. Questa inspiration, e da dove viene questa inspiration? She was inspired by history of art degree and particularly by the Renaissance because she studied it in Florence. Cioè, quindi da una parte addirittura un'influenza che viene dai suoi studi di storia dell'arte fatti a Firenze durante her gap year, quell'anno che gli inglesi spesso si prendono saggiamente, o gli americani, è una cosa molto anglosassone, gap, quell'anno di parentesi di studio, che uno appunto probabilmente è andata a studiare storia dell'arte a Firenze, non certo per motivi pratici, no, forse già sapeva che le sarebbe servito per disegnarsi, mi viene ora in mente, il suo wedding gown. Dopotutto si dice che lei sia stata un po' costruita, tra virgolette, per diventare principessa, quindi forse già pensava, chissà. Tutta invidia, mi sa, ma comunque. E poi invece c'è un'altra grande qualification, che she used to work, to use to, sappiamo che è quel modo inglese di dire che letteralmente era usa lavorare, cioè una volta, noi diremmo in italiano una volta lavoravo, più semplicemente ha lavorato, quindi ha lavorato as an accessory buyer. Buyer sono quelle persone che all'interno di un negozio decidono che tipo di merce portare nel negozio, quindi lei andava in giro per il mondo, si suppone, a decidere che cosa mettere nel reparto accessori di questo high street chain Jigsaw. Chain, una catena, Jigsaw, che in Italia non c'è. High street vuol dire, diciamo, potremmo tradurre con di lusso, comunque di alto livello. Beh, quindi ha qualche qualification in fatto di moda, più o meno, insomma, lo dice un po' ridendo la giornalista, ma insomma, si sa qualcosa di questo vestito che in realtà è sotto chiave a Clarence House? Letteralmente, appunto, under lock and key, noi diciamo sotto chiave, loro dicono in inglese cioè sotto lucchetta chiave, e però some leak, some details, leak vi suona sicuramente familiar, perché? Perché c'è WikiLeaks, naturalmente. To leak vuol dire appunto sgocciolare, fuoriuscire, ecco, quindi è fuoriuscito qualche dettaglio. Tipo? Tipo che dovrebbe avere questo ivory satin and lace number, cioè dovrebbero esserci dei lace e pizzo, dovrebbe esserci della seta color avorio, poi delle piccole pearl attaccate lì così, vedremo. Secondo me sarà una cosa semplicissima invece, altro che pizzi e perle e sete. Lo vedremo la prossima settimana. Gli inglesi sono tutti pronti. Qualsiasi grande casa sta decidendo un particolare prodotto da dedicare ai futuri sposi. L'ha fatto anche una delle più famose case di tè, non faremo il nome, ma insomma lo si sentirà nell'intervista, perché sentiamo parlare il signor Mark Nichols, che è un esperto di tè di questa casa molto famosa, che ha dedicato un tè a Kate e William. A royal wedding, as British as black cabs, red buses, and tea. Tea has been a very, very iconic part of British culture, so we thought we'd make a link, take time, and have a nice cup of tea to celebrate. Twinings decided to commemorate this royal wedding by developing this very, very unique blend of white tea, rose, with a twist of bergamot. The white tea, of course, being reflective of the iconic British wedding dress, the rose of the confetti and the beautiful bouquet on the day, and the bergamot just to give it that special little added twist of something. You know, I'm absolutely not privy to how Kate Middleton makes her tea, but I would love to think she makes an absolutely spot-on cuppa, and I'm sure she must do. Io mi sono innamorata di questo Mark Nichols, perché me lo immagino in questo negozio di questo famosissimo tè. Ma partiamo dall'inizio. Perché il tè è importante? Perché è iconic, un aggettivo che ultimamente si usa tantissimo. Che poi adesso, voglio dire, non sono l'unica famiglia reale del pianeta, però secondo lui un royal wedding è as British as black cabs and red buses, cioè è una cosa britannica, un matrimonio reale, tanto quanto le famosi taxi neri, che effettivamente speriamo che non spariscano mai, i black cabs che ci sono soprattutto a Londra, e naturalmente i red buses che sono, ci sono ancora, anche quelli double decker a due piani, che sono divertentissimi. Iconic, appunto, red buses, ma anche il tea. E allora questa azienda molto importante dice: perché non fare un link, un legame tra queste icone britanniche? Quindi iconically British il royal wedding, iconically British il tea drinking, e facciamo questo link. E quindi abbiamo, by commemorating, abbiamo deciso di commemorare by developing a very very unique blend of white tea. Naturalmente sapete che white tea è semplicemente perché as opposed to black tea, ma naturalmente le foglie non sono bianche, sono semplicemente che non è tè nero. Poi c'è dentro un po' di rosa, e poi c'è il famoso a twist, un zic, potremmo dire, in Lombardia si dice così, quindi un tocco di bergamot, che poi è quello famosissimo dell'Earl Grey, che lì è molto forte, qui probabilmente ce n'è appunto solo un twist. Non lo so, io lo assaggerò, perché settimana prossima lo dico, così poi dopo mi potrete chiedere conto. Io faccio un salto in Inghilterra per il Royal Wedding e mi porto dietro, mi compro sicuramente questo tè. E così ci dirai anche perché ha a che fare con i confetti, che noi pensiamo siano solo quelli con la mandorla, chissà se poi Kate e Will, non so se si usa la bomboniera nei matrimoni reali, ma c'è un false friend sotto questi confetti che spessissimo in Italia viene tradotto male. Cioè dobbiamo capire come si è arrivati a chiamare i coriandoli, perché questo è quello che gli inglesi pensano quando si dice confetti. Lui è veramente appassionato di te e anche di Kate, si sente. Sì, lui vorrebbe proprio vederla mentre she makes tea, però chi lo sa, magari un giorno lei andrà a fargli visita, si crea questo sogno, poi naturalmente sogna che beva questo tè con il rose white tea and a twist of bergamot. Lo proveremo. Giulia, io ti auguro un buon viaggio, ci racconterai tutto della Royal Wedding. Il nostro English 24 anche per questa sera si conclude qui. Ringrazio Roberto Scaltritti in regia, vi ricordo il nostro appuntamento in edicola con il mensile di English 24 e anche la nostra pagina di Facebook. Da Marta Cagnola e Giulia Crivelli, l'augurio di una buona serata.